Iran, le ore del voto, Ucraina, tra Donbass e Crimea, la guerra normale alle porte d'Europa. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Voter skepticism is a problem for the reformist candidates close to President Rouhani. It's 6 years since Maidan, and so while these 6 years since the massacre at Maidan, and while this is a big anniversary for Ukraine, of course. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Buon venerdì da parte mia e da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano, Antonio Talia, Ilaria Sesana, Giulia Canizzaro, Valentina Ternullo e Roberta Frisani che è regia. (349) 238-6666 per SMS e WhatsApp per domande e commenti, due i temi principali che tratteremo in questa ultima puntata della settimana di Nessun Luogo Lontano. Da un lato andremo a sentire e a vedere che aria tira a Teheran. In queste ore si stanno ultimando le operazioni di voto, voto cruciale, importantissimo, soprattutto in un momento storico in cui l'Iran potrebbe abbracciare una strada conservatrice che potrebbe ridisegnare gli interi assetti geopolitici dell'area. E poi, 6 anni fa, proprio in questi giorni, la strage dei Maidan a Kiev fu in qualche modo il detonatore di uno dei più tragici eventi, anche complessi da spiegare, raccontare e comprendere, che hanno segnato un paese alle porte d'Europa. Una guerra che ancora si combatte a bassissima intensità, ma che nel generale, come dire, oblio almeno mediatico, almeno quest'oggi abbiamo deciso di ricordare e riaccendere i riflettori. Commenti e domande, dicevo, anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Giampaz, ovvero Nessun Luogo è Lontano, Nessun Luogo 24, scusate. Detto ciò, la temperatura. Il nostro termometro internazionale sono tutti quei dossier, quei fatti, quelle notizie che arrivano dal mondo che sono state puntate in Nessun Luogo è Lontano, diventeranno approfondimenti o comunque dei dossier che continuiamo a seguire. Naturalmente c'è sempre la Libia sotto i nostri occhi, un po' di notizie che arrivano proprio dal terreno libico. Per la prima volta il presidente turco Erdogan, e questo è interessante, ha ammesso la presenza di soldati siriani su territorio libico. Fino a questo momento la Turchia aveva mantenuto un profilo molto basso, la cosa era abbastanza evidente a tutti, i report giornalistici segnalavano proprio la presenza di mercenari siriani, noi stessi avevamo raccontato, siriani naturalmente filo turchi, appoggiati dalla Turchia già nel teatro siriano e poi spediti a suon di denaro, il caso di dirlo, vi raccontammo di come gli stipendi venivano altro che raddoppiati, si aggiungeva uno zero addirittura per queste pericolose missioni militari. Fatto sta che per la prima volta Ankara ha ammesso la presenza di soldati siriani, di miliziani siriani, appunto filo Ankara. Però per, come dire, controbilanciare la narrativa, lo stesso Erdogan a un certo punto, dopo aver ammesso questa presenza, ha detto: parliamo anche dei mercenari russi della Wagner, e li ha quantificati in oltre 2500. Naturalmente si parla di dichiarazioni che hanno sicuramente e chiaramente un fine propagandistico, ed è l'ennesima stilettata ai rapporti sempre piuttosto tesi ultimamente tra Ankara e Mosca. Peraltro adesso dovrebbe essere iniziata una telefonata proprio tra Erdogan e Putin, e se arriveranno notizie naturalmente ve le daremo. L'altro grande dossier sul tavolo è naturalmente la presa di Idlib. Voi sapete che giusto ieri ci sono stati altri due morti tra le fila turche, quindi la situazione si è fatta davvero particolarmente delicata. Le altre due notizie che riguardano la Libia sono, da un lato, il Consiglio d'Europa che ha rimbrottato piuttosto pesantemente il comportamento italiano dopo la firma del memorandum d'intesa con la Libia. Lo sapete, si continua ad addestrare la guardia costiera libica, si continuano a dare mezzi. Ebbene, il Consiglio d'Europa si è pronunciato dicendo all'Italia che deve sospendere questa attività di collaborazione almeno fino a quando non vi sarà un rispetto totale dei diritti umani. Il governo italiano ha risposto che è meglio avere un piede e una collaborazione in un paese così delicato e sensibile per poter meglio indirizzare anche le collaborazioni. C'era peraltro la volontà di inserire degli addendum a questo memorandum proprio per garantire un maggiore rispetto dei diritti umani nel paese. L'ultima notizia, sempre libica, e questa è molto interessante. Haftar per la prima volta dice: sono disposto a un cessate il fuoco, sono disposto a una tregua, però le truppe turche o filoturche devono andarsene da Tripoli. In buona sostanza, ancora una volta, ma stavolta sul piano diplomatico, sembra che sia sempre il generale Haftar a dettare le regole di una crisi libica che ancora non trova fine. Il caso Zaki, Patrick George Zaki, lo studente universitario egiziano che studiava all'Università di Bologna, tornato, poi arrestato, secondo il suo legale torturato. Domani c'è un'udienza al tribunale, ieri è stato visitato dai familiari, la visita è andata bene, hanno scritto le agenzie senza alcun problema. Il rischio che si palesa nell'udienza di domani è che possa essere rinnovato questo arresto preventivo. Sapete, c'è una fortissima mobilitazione da parte un po' di tutta la comunità internazionale, soprattutto degli studenti, che con vari flash mob e operazioni spesso sui social, fotografiche, Instagram, stanno tentando di sensibilizzare la comunità internazionale, soprattutto l'Europa e l'Italia, nel cercare di fare da leva sul governo egiziano. Ieri dall'Egitto arrivavano delle immagini di uno dei principali telegiornali, quelli più seguiti sulla TV nazionale, in cui il conduttore, in una edizione particolarmente seguita, alludeva in maniera anche piuttosto non troppo velata, mettiamola così, all'orientamento sessuale di Patrick George Zaki, e essere gay in Egitto è considerato un reato. Insomma, c'è questa condotta anche giornalistica probabilmente discutibile, ma sappiamo anche lo stato del giornalismo in Egitto, che è molto censurato e molto controllato dal regime di Al-Sisi. Dall'Afghanistan, l'ultima notizia che ci interessa, aveva un po' spento i riflettori su quelli che erano, da un lato, vi abbiamo dato notizia della vittoria super risicata di Ashraf Ghani su Abdullah Abdullah. Interessante vedere, ieri vi dicevamo 50.6%, però sostanzialmente ha votato il 6% della popolazione o poco più, perché l'astensionismo è stato altissimo, buona parte dell'Afghanistan è controllato dai talebani. Detto ciò, arriva un segnale di spiraglio proprio dai talebani, che propongono una de-escalation dei conflitti per almeno una settimana in vista di una serie di colloqui che dovrebbero riprendere con gli Stati Uniti a Doha in Qatar. Lo sapete, i talebani hanno aperto un vero e proprio ufficio di rappresentanza in Qatar, e lì si svolgono parecchie tornate di colloqui. Sul piatto che cosa c'è? Sostanzialmente i talebani vogliono il ritiro delle truppe statunitensi, e a fronte di questo ritiro garantirebbero non soltanto la pacificazione dell'Afghanistan, ma anche l'assenza di qualsiasi rifugio a gruppi jihadisti. Vi ricorderete, insomma, come Al-Qaeda e anche ISIS hanno per lungo tempo trovato accoglienza fra quelle montagne e alcune frange dei talebani stessi. Questo è il nostro termometro internazionale per voi, 349-238-6666. Adesso, Roberta Frisani, andiamo a Teheran. Quello che avete sentito è un passo di preghiera del lungo sermone che è stato tenuto quest'oggi dall'imam della grande moschea Khomeini nel centro di Teheran. Una preghiera importante, quella del venerdì, una moschea molto molto frequentata, molto simbolica. Roberto Buongiorno, buongiorno, ben ritrovato da Teheran. Buonasera a tutti. Allora, Roberto, il sermone dell'imam quest'oggi è stato particolarmente politico. Sentiamo un altro passaggio che è raccolto proprio poche ore fa. Con i negoziati non andremo da nessuna parte. Tutti i successi del passato sono stati ottenuti grazie alla resistenza, e in futuro sarà ancora questa la strada. Grazie a questa resistenza, l'accordo del secolo si è rivelato un bambino nato morto. Un piano fallimentare. Gli americani e i sionisti non saranno più tra i piedi. Roberto, buongiorno. È un discorso piuttosto forte, molto molto politico. Che effetto, che presa può aver avuto sull'elettorato iraniano quest'oggi? Hai sottolineato bene, un discorso politico incentrato sul nemico esterno è stato quanto poi la strategia su cui è stata costruita la campagna elettorale. Come dicevi, la moschea Khomeini di Teheran il venerdì, nell'ora di preghiera, nel giorno di elezione, è un luogo molto simbolico che restituisce bene l'atmosfera dell'ala conservatrice. Ripeto, gli iraniani sono anche un popolo a Teheran Nord simile per costumi agli europei, ma c'è una parte dell'Iran anche molto povera, più religiosa. L'Iran è un paese pieno di differenze e contraddizioni. Ecco, la cosa che più mi ha colpito personalmente con le persone che ho parlato è che tutti gli elettori danno la colpa dei propri mali all'America e a Israele, come se fossero stati un po' in questo caso plagiati, influenzati, e quindi vedono il voto come un'occasione per dimostrare la propria indipendenza e per liberarsi e affrontare questi potenze nemiche. Ecco, questo è veramente Roberto, ti devo interrompere perché la linea non ci sta assistendo particolarmente. Ne approfitto per far sentire ai nostri ascoltatori quelle che sono delle voci dei lettori che hai raccolto proprio davanti ai seggi. Partiamo con la prima voce, è un sessantenne e dalle sue parole intuirete anche l'orientamento politico. Ascoltiamo. Nelle precedenti elezioni il popolo è stato ingannato dalla propaganda americana e sionista. Per questo i conservatori hanno perso e oggi siamo qui per sostenerli. Tutti i nostri problemi derivano dagli americani. Morte all'America! Morte a Israele! Insomma, toni accesi da parte di alcuni elettori di fronte ai seggi, molto, molto accesi. Sentite un altro elettore, Askar Yousefi, a 70 anni, è arrivato a votare a Teheran da una provincia piuttosto lontana. Ascoltiamo insieme. Sono arrivato a Teheran dal Belucistan per fare curare mia moglie. E avendo fiducia nel sindaco di Teheran, intendo votare lui e i candidati della sua lista, sperando di contribuire così alla stabilità della Repubblica Islamica, sperando che loro possano aiutare noi poveri che abbiamo bisogno di cure. Roberto, buongiorno, abbiamo ripristinato la linea, vediamo se ci supporta come si conviene. Ho fatto sentire un po' di voci, in particolare quel anziano signore che tuonava contro i due nemici, i due diavoli per alcuni degli iraniani, sono gli Stati Uniti e Israele. Segno che questa retorica incendiaria funziona probabilmente più a uso interno che in realtà a uso esterno, perché poi a ben vedere, come dire, la politica estera iraniana su alcuni settori è particolarmente aggressiva e presente, su altri decisamente no. Però insomma il nemico esterno funziona sempre in qualsiasi latitudine, a qualsiasi longitudine. Hai detto benissimo, qua funziona perché i problemi iraniani sono tanti e non ci sono solo i problemi dovuti alle sanzioni internazionali e sanzioni americane, ma anche i problemi dovuti alla corruzione che è molto alta, la perequazione della ricchezza tra classi ricche e classi povere. Insomma, il nemico esterno viene impiegato per questa cosa. Peraltro però è anche da dire che tutta questa retorica è usata per spingere la popolazione a votare, perché la cosa importante oggi per il regime e per tutti i conservatori è l'affluenza, e per quello che noi abbiamo avuto modo di vedere, l'affluenza soprattutto nei quartieri nord della città, dove ci sono anche il sostenitore dei riformisti, è stata piuttosto bassa. E questo sarebbe un grave vulnus per la legittimità di questo nuovo Parlamento, che è utile ricordare andrà a condizionare, a segnare il nuovo presidente evidentemente, ma è così tutta la politica per gli anni a venire. Come hanno cercato? Allora, leggevo qualche tweet di Khamenei, della guida spirituale, che diceva: andare a votare è un dovere religioso. Si è in qualche modo, come dire, imposto questo voto, però sembra che non abbia funzionato su tutti. Cos'è, l'anima più secolarizzata e nascosta dell'Iran che sta vincendo, o uno certo scollamento tra Khamenei e alcune fasce della popolazione? Insomma, c'è un invito da quella che è l'autorità suprema e non tutti aderiscono a questo invito. Cosa sta accadendo? Ma come ha detto esattamente così Khamenei, ma non solo, ma anche la televisione di Stato sta testando con video gli ascoltatori delle radio per andare a votare. Dunque, i seggi c'era sicuramente gente. non così tanta come ci si attendeva, non sarà il 70% come sostengono loro degli ultimi quasi 4 anni fa delle elezioni, però parlare di una rivincita dei riformisti forse è troppo prematuro. Sì. C'è un elemento che forse si può cogliere anche tra l'ala conservatrice. C'è molta rabbia da parte degli iraniani per come è stata condotta la tragica storia dell'aereo civile ucraino abbattuto dal forze militari iraniane, molto iraniane, di come è stata nascosta e poi gestita la situazione. Gli iraniani poi non dimenticano peraltro le gravi dimostrazioni contro il caro del 10 novembre con una repressione durissima. Dimostrazioni qui sono scesi trasversalmente tutti gli iraniani contro Carlo Benzina, molti anche sostenitori dei partiti conservatori, quindi c'è molta rabbia soprattutto tra i giovani. Questo potrebbe essere un elemento che ha spinto una parte della popolazione a disertare i seggi elettorali. Sì. Roberto, buongiorno, in diretta da Teheran, ci sta raccontando questo delicato momento politico iraniano. Nel frattempo le agenzie, Roberto, stanno battendo la notizia secondo cui le operazioni di voto sarebbero prolungate di almeno 2 ore. Le autorità responsabili per le elezioni hanno deciso di prolungare appunto l'apertura dei seggi e lo avrebbe riferito anche la televisione di Stato. Quindi dovevano concludersi alle 18 ora locale, continueranno fino alle 20, saranno circa le nostre 5, 5 e mezza, 6 italiane, per le segnalazioni che sarebbero arrivate da varie circoscrizioni di persone in fila ai seggi. Però mi sembra di capire, tu a Teheran persone in fila non le hai ancora viste. No, non ne ho viste la moschea, naturalmente con me c'è tantissima gente. Tendenzialmente le elezioni in Iran la gente si vede solo la mattina presto o la sera. Sì. Ma quello delle 2 ore era già circolata la voce giorno e pomeriggio, e i più diffidenti o i più obiettivi, non so come definirli, possono dire che è una mossa per cercare di spingere ancora più persone a raggiungere una sufficiente affluenza in grado di legittimare un Parlamento che altrimenti non ne uscirebbe così bene da questo voto. Certo, certo. Grazie mille Roberto, buongiorno, in diretta da Teheran per raccontarci queste lezioni. Buona giornata e buon lavoro, Roberto. Naturalmente vi daremo conto nelle prossime puntate di Nessun Luogo, oramai da lunedì in poi, evidentemente, di come andranno le operazioni di spoglio, se quell'anima riformista iraniana troverà almeno un posto per raccogliere le istanze della piazza, quelle istanze che denunciano la corruzione e una crisi economica che attanaglia l'importante paese medio orientale, o se i conservatori, come è altamente probabile, in qualche modo scriveranno la parola fine alla carriera politica di Rouhani, che è sempre più isolato, e invece daranno poi successivamente, tra un anno, corpo a un presidente che seguirà in maniera più stretta quella che è il leitmotiv ormai ultimamente soprattutto della guida suprema, cioè il grande nemico sono gli Stati Uniti, il grande nemico è Israele. 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri commenti. Un ascoltatore: sa cosa mi stupisce di più? Non la violenza della retorica, ma la somiglianza con certa nostra politica. Basta sostituire America con Unione Europea. Qua io, gentile ascoltatore, devo dissentire, perché anche gli euroscettici, insomma, difficilmente utilizzano quella ferocia verbale che abbiamo udito. D'altra parte, come dire, è anche vero che è un momento particolarmente sensibile della politica iraniana, e non tutte le fasce della popolazione hanno accesso agli stessi mezzi di informazione, e quindi probabilmente c'è anche un, come dire, un problema anche di chiusura, no? Di apertura mentale rispetto al mondo, soprattutto sulle fasce rurali della popolazione iraniana. L'elezione del nemico esterno durante le elezioni interne è, insomma, qualcosa che ha sempre funzionato. Un altro ascoltatore: sembra che l'autorità suprema possa sentirsi eventualmente delegittimata dall'astensionismo, che sia un'arma bianca di protesta. È esattamente così. Tantissimi giovani hanno dichiarato che non andranno a votare proprio per questo. Vogliono in qualche modo mettere a nudo un Parlamento, un organo legislativo che non è rappresentativo di tutte le anime dell'Iran. Non è un caso, ricordate, ve lo dicemmo qualche giorno fa, che lo stesso presidente in carica Rouhani avesse chiesto al Consiglio dei Guardiani, che è quell'organo che stabilisce quali candidati si possono presentare e quali no, avesse chiesto al Consiglio: per favore, diamo uno specchio corretto del paese, diamo voce a tutte le istanze. Ma a vedere i numeri, ve li davamo ieri, circa una metà, il 50% dei possibili candidati è stato scartato, e insomma forse non c'è stata esattamente questa apertura. Allora, c'è qualcuno che mi interroga su quella che è la situazione del coronavirus. Io vi rimando, appena chiuderò qua il microfono, la radio vi proporrà assolutamente informazioni puntuali e specifiche e degli speciali. Mi sento di dire solo una cosa: tra pochissimo andremo in Ucraina, c'è stato un episodio piuttosto grave, sgradevolissimo, i rimpatriati ucraini, cittadini ucraini che arrivavano dalla Cina sono stati presi, sostanzialmente assassate i due pullman, c'è stata state scene quasi di guerriglia urbana che hanno preoccupato proprio in questi giorni in cui si celebrano i 6 anni dei caduti, i martiri come vengono chiamati da alcuni di Piazza Maidan. Vi ricordate, era il 2014, Yanukovych che se ne scappa in Russia, quella piazza presa di mira dai cecchini, successe un po' di tutto in quei giorni, decine e decine di morti, poi da lì l'annessione della Crimea e poi la crisi in Donbass. Oggi cercheremo col prossimo ospite di fare luce anche su quella che è una guerra a bassa intensità e una crisi politica incredibile che è lasciata lì alle porte d'Europa senza troppe spiragli, senza troppi spiragli di risoluzione. Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande, ma anche Facebook, Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24, Twitter, Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. È interessante un altro ragionamento dell'ascoltatore, sempre riguardante le elezioni iraniane. Ma i falchi saranno davvero sensibili all'affluenza? Abbiamo visto infiniti uomini forti bullarsi senza remore di maggioranze bulgare per nulla credibili. In certe situazioni la forma viene resa sostanza. Beh, gentile ascoltatore, quello che è accaduto, che abbiamo appena raccontato, proprio in Afghanistan, Ashraf Ghani cerca di fregiarsi di un'autorevolezza e di un supporto popolare che assolutamente non ha. Sì, 50.6% di percentuale, ma pochissimi, 3 milioni soltanto gli elettori, è come se tutta l'Afghanistan avesse votato praticamente soltanto Kabul. Detto ciò, io andrei a fare una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse, l'informazione finanziaria, e poi nella seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, come promesso, andiamo a accendere i riflettori sull'Ucraina. Radio 24 si sintonizza con te. Partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio e dacci i tuoi voti. Raccontaci le cose che ami e quello che ti aspetti dalla radio che hai scelto e che ascolti. Aiutaci a diventare la tua radio ogni giorno di più. Vai su radio24.it e partecipa al sondaggio Radio 24 La Mia Radio. La tua opinione è fondamentale per migliorarci. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Beh, un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic, fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici. Questa è la seconda pagina di Nessun Luogo è Lontano, in cui apriamo il lungo capitolo che dedicheremo all'Ucraina, un paese che ha vissuto pagine piuttosto dolorose nella storia recente. Proprio 6 anni fa, Maidan, le giornate più sanguinarie, proprio ieri, vi faremo sentire una voce da Kiev, sono stati celebrati i martiri, quelle proteste che raggiunsero l'apice proprio in questi giorni, appunto 6 anni fa, con la fuga del presidente Yanukovych fino in Russia. Iniziò una fase di profonda instabilità, la Russia ne approfittò con l'annessione della Crimea, l'invasione del Donbass. Dopo anni di gelo, lo scorso 9 dicembre, complice, guardate un po', ancora una volta, il governo francese, il presidente Macron, che l'abbiamo ribadito più volte, si è fatto molto spesso alfiere di una politica di pacificazione, di apertura verso tanti paesi considerati magari distanti dal resto dell'Europa. Insomma, fatto sta che ha rimesso in piedi un tavolo di discussione fra Putin e Zelensky. Zelensky. Però parallelamente continuano gli attacchi, soprattutto in Donbass, e proprio di recente il presidente ucraino Zelensky ha rifiutato un piano di 12 punti che doveva dare corpo in qualche modo agli accordi di Minsk. Partiamo però con Gigi Donnelli. Buongiorno, benvenuto qui a Nessun Luogo. Buongiorno, grazie. Mi davi notizia, fra l'altro io un po' me le son perse, non è un'area che frequento assiduamente come te, che in Donbass vi sono scontri che si sono intensificati negli ultimi giorni, anche colpi di artiglieria piuttosto pesanti. Cosa significa questa Assolutamente cosa? Assolutamente sì, effettivamente noi viviamo in un tempo in cui da una parte, come dire, la distanza fisica rimane, dall'altra il web ci consegna, come sai benissimo, dei blog aggiornati praticamente ogni mezz'ora su quello che accade. Cosa sta accadendo? Si intensificano gli scontri su quelle che viene chiamata la linea di contatto, che poi è il fronte. Quando dico si intensificano, stiamo parlando di qualcosa come 100 colpi soltanto nelle prime due ore di questa mattina, colpi d'artiglieria, quindi colpi pesanti che vengono appunto lanciati, dopodiché c'è l'attribuzione, la denuncia da parte delle autorità appunto di Kiev di queste operazioni militari lanciate dal fronte separatista sostenuto dai russi. Loro ribadiscono che il tipo di arma utilizzato, come dire, non si muove senza la presenza di militari russi. Il significato? Beh, punto di domanda: da una parte abbiamo un dialogo, l'hai segnalato poc'anzi, un dialogo che comunque si è aperto, perché questi sono fatti, cioè gli scambi di prigionieri non sono fantasia, tra appunto Putin e il nuovo presidente Zelensky. Sì. Dall'altra parte abbiamo le celebrazioni, appunto Maidan, i 100 morti e quindi quelli che viene chiamata la centuria celeste a Kiev, e c'è una grande tensione. Ecco, il significato forse, chissà, potrebbe essere il fatto di ribadire per alcune forze la necessità di avere un dialogo, oppure, come sai bene, è molto difficile distinguere all'interno di una zona in guerra chi sta muovendo e per quali scopi esattamente le proprie pedine. Sì. Allora, peraltro Mosca si è detta estranea a questo genere di attacchi. Sui social si vedono prove difficilmente verificabili di armi chiaramente russe che, come dicevi tu, possono essere movimentate soltanto dalla presenza russa sul territorio. Una delle motivazioni dell'aggressività russa, diciamo, mettiamola così, nella zona è sempre stata cercare di tutelare la componente russofona. In qualche modo si è detto sulla Crimea è un'annessione a tutti gli effetti, perché è naturale che sia così, poi andremo meglio nelle motivazioni, e anche sul Donbass. E su questo vi è molto spesso una divisione quasi ideologica anche nel pubblico italiano, no? Cioè, è molto divisiva la questione ucraina. Ci aiuta a capire cosa significa essere russofono nel Donbass? Beh, allora, innanzitutto nel Donbass sono tutti russofoni. Quindi la distinzione è se vuoi essere russofono e russofilo. L'est, l'Ucraina è un paese che, tu giustamente dicevi, ha passato 6 anni complicati. Diciamo che ha avuto almeno gli ultimi 3 secoli complicati. Alcuni passaggi chiave sono la fine dell'impero di Francesco Giuseppe. Mi rendo conto, andiamo paura, parecchio indietro. Lo so, 1918, metà dell'Ucraina era austriaca, la metà orientale era nell'impero russo, ma con una volontà di autonomia. La volontà di autonomia si è concretizzata solo nel 1991 con la caduta dell'Unione Sovietica, quindi c'è questo periodo, e all'interno di questo c'è un confine che è quello orientale, appunto il Donbass, quindi la regione del Mineraria e la regione del bacino del fiume Don, che è ovviamente russofona, visto che da quella parte del paese, oltre il Dnipro, si parla la lingua russa. Non c'è niente di strano in questo. Il presidente della Repubblica, appunto ucraina, parla in famiglia russo, non parla ucraino, che è la lingua piuttosto dell'ovest del paese. In questo, se ci pensi, è anche un po' simile all'Italia, cioè un paese in cui l'italiano è stato costruito a tavolino e non è che proprio sia identico. Detto ciò, l'ucraino e il russo si capiscono perfettamente, spesso parlano quella terza lingua che chiamano il surjik, che è una fusione delle parole, e quindi di certo non può essere una questione linguistica tutta questa tragedia. Detto ciò, se questa è, come dire, stata un'efficace leva, un efficace alibi, chiamiamolo così, per la Russia per muovere i suoi tentacoli in quella zona, le motivazioni in parte le hai già ricordate tu: zona mineraria, zona industriale, quella dell'est, e poi soprattutto lo sbocco sul mare. E poi l'Europa. Scusa, c'è un elemento. 6 anni fa tutto quanto, diciamo, o meglio l'esplosione di quei giorni di sangue, Euromaidan viene chiamato così quando il presidente allora in carica cancella la firma dell'accordo di adesione, di associazione, pardon, dell'Ucraina all'Europa. Accordo che sarà firmato soltanto 2 anni e mezzo più tardi, in un clima quasi, come dire, non è in segreto perché è una cosa pubblica, però non diciamolo troppo forte, perché c'è una cosa che va effettivamente detto e va capita nella logica russa: l'adesione all'Europa di tutti i paesi dell'est è stata anche equivalente all'adesione nella NATO. Certo. Cosa che crea delle grosse complicazioni ai russi, e si può anche ragionare, credo, su questo. Assolutamente. Che la NATO, come dire, stia prendendo un'anima fortemente antirussa lo riprovano le lunghe esercitazioni militari, ce ne sarà fra l'altro una gigantesca fra poco. Abbiamo parlato di mare, questo è un capitolo interessante, sì, perché da un lato abbiamo il Mar di Azov, dall'altro il Mar Caspio. Andando a spulciare un po' di libri, ultimamente rileggevo Tim Marshall, che ogni tanto lo cito, 10 mappe per capire il mondo. Certo. La tesi è: tu non puoi essere una grande potenza se non hai uno sbocco su un mare tiepido. Ora, noi sappiamo, mi insegni, Mar Nero, scusami, sì, non Mar Caspio. Certo. Tu mi insegni che la Russia, insomma, sul mare Artico pure si sta impegnando, ma... E quindi qua si spiegherebbe, diciamo... Anche questo è una storia vecchia, almeno 150 anni. Il grande porto del nord della Russia, Murmansk, dove c'è la flotta e dove tutti, credo, abbiamo visto Caccia Ottobre Rosso, io l'ho visto 20 volte, è stato creato all'inizio del Novecento per dare una risposta ai blocchi continui nel Mar Nero. Perché, appunto, anch'io condivido la tua passione per le mappe, il Mar Nero è bello, rotondo, apre sul Mediterraneo, però c'è 2 stretti, ci sono i Dardanelli e il Bosforo, e dunque una chiave. Hai parlato parecchio di Turchia poc'anzi. Sì. Bene, certo, con il mondo è cambiato, quindi il mare non ha più la stessa importanza, tant'è che i sottomarini nucleari sono basati per lo più nel nord della Russia. Però l'idea dell'accesso al mare non è mai cambiato. Certo, intanto arrivano un po' di messaggi, l'avevo preannunciato, è un tema super divisivo. Questo, su Ucraina sto dicendo delle fake news, fu un golpe nazista voluto da Obama. Altri messaggi dello stesso tenore tirano in ballo appunto presenze di neonazisti, poi si fa di tutto un album fascio, insomma quella piazza fu neonazista. Gigi Donnelli, aiutaci a capire. No, quella piazza non fu assolutamente neonazista, quella piazza, è chiaro che nei momenti in cui si creano delle tensioni così violente si rimesta la storia. La storia è fatta di 2 guerre mondiali in territorio dell'Ucraina, di un leader nazionale, in particolare nella seconda, che viene citato continuamente, che è Stefan Bandera, quello che vediamo i banderisti e sono i più attivi nelle manifestazioni, sono certamente gente di estrema destra, sono certamente suscettibili di essere accusati di antisemitismo, non rappresentano certo la maggioranza del paese. Qual è la prova? Non perché lo dico io, ma dopo tutto l'Ucraina è un paese che ha 1000 difetti, però ha un voto regolare, e se vedete, lo invito anche i nostri ascoltatori a vedere sui siti, il valore delle forze dell'estrema destra, vedrete che si spengono intorno al 2%. Dopodiché questo significa che quando si va in piazza si notano il 2%? No, si notano il 60%, perché sappiamo bene che le piazze si muovono in un altro modo. Certo, la piazza è uno specchio, ma è una porzione in realtà della realtà, quella più motivata, quella probabilmente più militante, e quindi evidentemente ci può essere anche una stortura in questo senso. Ma assolutamente. E poi ripeto, anche nel nostro paese ci sono storiche formazioni di estrema destra che ci spaventano, ci agitano comunque, ma questo non significa affatto che rappresenti la totalità. Non dimentichiamo che comunque l'Ucraina è un paese che ha votato regolarmente, ed è anche un paese che, per quanto possa sembrare bizzarro, ha eletto ancora 7 mesi fa un presidente attore con il 75% delle preferenze, e io sono abbastanza certo che se non dovesse andar bene sarà spedito a casa come altri, perché da questo punto di vista la mobilità che c'è in quel paese giovanile è di ben altro livello. Grazie mille Gigi Donnelli. Grazie. Per essere stato con noi. Abbiamo messo un po' di punti fermi su quella che è l'attuale situazione ucraina, ma con tanti risvolti del passato anche sulla geografia. Questo ci piace tantissimo. Viabilità, poi ancora parliamo di Ucraina. Promo 24. Eolo, internet a banda ultralarga, porta connettività fino a un giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultraveloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a un giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano, gentili ascoltatrici e ascoltatori, in realtà continuiamo a rimanere sul tema. Ci interessa, sapete perché? Perché troviamo incredibile l'assenza della diplomazia europea su un conflitto proprio alle porte d'Europa. Difficilmente si sono sentite delle pronunce, delle prese di posizione, delle volontà di azione. Beh, è chiaro anche che da un certo punto di vista, di fronte alla muscolarità delle ultime mosse russe, sia difficile prendere posizione. Detto ciò, però, sono 6 anni che l'Ucraina e in particolare il Donbass e anche la Crimea sono in una situazione politica, diciamo, sospesa e particolarmente delicata. Su tutto c'è sicuramente, lo sottolinea molto bene un ascoltatore al 349-238-6666, il ruolo dell'Ucraina, diciamo, più strattonata verso ovest, verso la NATO, verso l'Europa. La Russia non può accettare la NATO a 200 km da Mosca, dice infatti l'ascoltatore, esattamente come gli americani non hanno voluto i russi a Cuba, che è ancora sotto embargo. Insomma, una situazione delicata. Per cercare di capire meglio qual è la situazione a Kiev, facciamo un passo indietro e torniamo alla quella commemorazione delle vittime di Maidan, nelle parole e con la voce di Matthew Kaffer, che è il caporedattore news di Kiev Post. Sentite. It's 6 years since Maidan, and so while these 6 years since the massacre at Maidan, and while this is sono passati 6 anni dalle proteste di Maidan. Ieri sera c'è stata una cerimonia a Maidan Nezalenosti, la piazza dell'indipendenza, per commemorare le vittime di Maidan. C'è anche stata una marcia verso l'ufficio del presidente Zelensky, che ha incontrato i familiari delle persone uccise nel 2014. Il presidente ha ribadito il fatto che queste persone verranno ricordate e che il governo farà di tutto per risolvere la vicenda e per portare davanti alla giustizia le persone che hanno ucciso i manifestanti di Maidan. Detto questo, la vicenda è molto triste. In questi 6 anni non ci sono state condanne e 5 ex membri delle unità antisommossa della polizia ucraina sono stati scarcerati a fine dicembre nell'ambito di uno scambio di prigionieri con i combattenti filorussi nel Donbass. Fondamentalmente, l'amministrazione Zelensky ha dato il via libera alla loro scarcerazione in cambio della liberazione di soldati ucraini che erano prigionieri in Donbass. Questo è un brutto segnale per le famiglie dei morti di Maidan, perché ora che queste persone sono in Donbass, probabilmente sono andate in Russia e non sarà più possibile portarli davanti alla giustizia. La voce che avete sentito è quella di Matthew Kaffer, che è una firma del Kiev Post e ci ha raccontato quello che è accaduto ieri a Maidan. Le ultime dichiarazioni del presidente Zelensky sul tema Donbass e Crimea sono interessanti. Sapete che sono dei colloqui di pace, i 12 punti però non erano, sembravano, hanno detto gli analisti, molto molto filorussi. E non è un caso che tra i think tank, gli analisti, i politici e i diplomatici che hanno steso questi 12 punti alla conferenza di Monaco, quella sulla sicurezza che vi abbiamo raccontato, ebbene vi fosse praticamente un rappresentante diplomatico ucraino. Detto ciò, Zelensky sta cercando di recuperare il Donbass, sentite. Il presidente Zelensky vuole mettere fine al conflitto in Ucraina orientale. Lo aveva promesso in campagna elettorale e si sta muovendo per ottenere questo risultato. Ma il tema è divisivo. Da un lato, molte persone sono stanche del conflitto. Dall'altro, molti lo accusano di aver capitolato davanti alla Russia. Il percorso verso la pace è andato abbastanza bene, anche se non è andato molto avanti. Ci sono stati alcuni ritiri di truppe a un certo numero di hotspot lungo la linea del fronte. Di per sé non è una cattiva idea. Russi e ucraini si sono ritirati di circa un chilometro in luoghi dove erano molto vicini tra loro per evitare scontri a fuoco, in modo da evitare vittime non solo tra i soldati, ma anche tra i civili. Al tempo stesso è stata una mossa impopolare tra le persone che pensano sia rischioso cedere territorio ai combattenti supportati dai russi. Al momento non possiamo dire davvero che questo abbia portato i filorussi a occupare più territorio. Sebbene la scorsa settimana c'è stato uno scontro a fuoco piuttosto violento e sembra che i combattenti filorussi abbiano guadagnato terreno, le forze ucraine hanno risposto e hanno lanciato una controffensiva. Although the Russian backed fighters didn't take it, it just ended up kind of between the two lines. La voce e l'analisi di Matthew Kaffer del Kiev Post. I vostri messaggi, i vostri commenti invece al 349-238-6666. Luigi da Milano: l'Ucraina è stata l'ultima stupidata di Hillary, la NATO non può stare in Ucraina, appunto alludendo, immagino, a come la Russia possa sentire il fiato sul collo. A me interessa sottolineare ancora una volta, ma forse sarò monotono, quell'allungamento della Russia su Mar Nero e Mar d'Azov. Peraltro Mar d'Azov che non può sopportare in realtà navi di grosso carico. Adesso la dico male, il mio linguaggio militare, abbiate pazienza, non è particolarmente forbito, ma sostanzialmente grosse portaerei praticamente non ci possono entrare, mentre sul Mar Nero la situazione è differente. Poi da lì si arriva sul Mediterraneo. Ricorderete che sul Mediterraneo la Russia è già presente grazie all'amicizia, sto pensando alla Turchia per esempio, con Bashar al-Assad. Insomma, questa, secondo alcuni analisti, questa aggressività russa nella zona potrebbe essere vista come un tentativo sul lungo termine di affacciarsi a mari più tepidi, che sono quelli che consentono le attività commerciali e la supremazia marittima. Nel 2020 ancora le grandi potenze militari se la giocano non soltanto con gli aerei e i satelliti, ma anche e soprattutto in alcuni quadranti con le navi. Roberta Fisani, so che mi stai per rimbrottare perché volevo far sentire ancora la voce di Matthew Kaffer, ma non c'è tempo. Ok, allora con molta calma questa volta diamo un ordine. Che prelude ai titoli di coda, ai ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Vi ricordo che l'appuntamento è domani mattina, sabato, ore 10 per il meglio di, e poi lunedì alle 16 Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.